上好。 晚上好。 Buonasera, a più tardi. Francesco, ma con chi stai parlando? Con i nostri nuovi vicini, i signori lì. L'ho capito che stanno lì, per questo sono nostri vicini. Se fossero i signori qui, allora sarebbero i nostri coinquilini. Che ragionamento! Che sragionamento! Quei signori si chiamano lì di cognome. Il signor Hong e la signora Bao. Maremma, che nomi! O dove li hanno trovati? Sembrano nomi di marche delle patatine. Ma di chi sono figli? Di due impiegati della Nestlé? Ma no, sono nomi orientali. Infatti i nostri nuovi vicini sono cinesi. Oh no, sono arrivati anche qui a Marina di Bibbona. Adesso vedete come va a finire. Avranno già messo su un paio di telai in camera. Tra un po' si comprano la pizzeria qui a fianco e ne fanno un ristorante wok. Poi si prendono il bar, allargano il bazar delle ciabatte e tirano su un centro massaggi con signorine un po' troppo avvenenti e soprattutto un po' troppo disponibili. E nel frattempo si saranno comprati tutti gli appartamenti qua attorno. Il tempo di qualche estate e in questo isolato non troveremo più neppure un europeo. Presto, avvisiamo i giornali che quelli per ora i cinesi non li comprano. Giorgio, fatene una ragione. I cinesi in Cina sono quasi 1,5 miliardi. Altri 50 milioni vivono in giro per il mondo, di cui 300.000 in Italia. In Toscana ce ne sono più di 50.000 e in provincia di Livorno sono almeno 700. Per ragioni statistiche, un cinese vicino di casa, prima o poi te lo ritrovi. E poi perché tanto allarmismo? Come gran parte dei toscani, i cinesi qui cercano un'occasione. Un'occasione per vivere una vita piena di significato e soprattutto senza ristrettezze. E come per la gran parte dei toscani, solo pochi di loro ci riescono. E per forza, non parlano l'italiano. Già, è difficile per noi. Pensate a quelli che sono andati nelle banche e si sono fatti rifilare di ogni ben di Dio credendo che fossero bot. Derivati, bond argentini, obbligazioni spazzatura, titoli rischiosi e hanno pure firmato paginate di contratto. Saranno sì state scritte in italiano, ma sfido chiunque a capirci anche solo una parola. Figuriamoci un cinese che scrive con altri caratteri e che legge prima dal basso in alto e poi da destra a sinistra. A quelli le banche gli avrebbero venduto direttamente il Colosseo, cioè uno swap legato a un future su una stock option index linked con sottostante l'incasso medio annuale di un centurione che si fa fotografare dai turisti sotto il Colosseo. Multe escluse, perché a Roma è vietato. Vestirsi da centurione intendo, non rifilare strumenti finanziari rischiosi. Ma d'altra parte, avete mai visto a Firenze qualcuno andare in giro vestito come Dante? Guarda che la gran parte di cinesi nati in Toscana, il cinese non lo parla. Magari a casa i loro genitori usano il cinese per parlare con loro e loro lo capiscano ma non lo parlano. E magari rispondano ai genitori in italiano, che non lo parlano ma lo capiscano. E i signori lì sono nati a Prato, dove oggi un bambino su 6 è cinese. Comunque avremo modo di approfondire la questione e approfondirla direttamente con loro, visto che ci hanno invitato a cena. Cosa? Ci hanno invitato a cena? E che ci danno da mangiare? Le meduse fritte o in insalata? Ma lo sapete o no che prendono il pedalo, vanno al largo e le chiappano con i retini? È vero, e la guardia costiera li ferma ogni tanto per i controlli, ma la pesca delle meduse non è vietata. Anche se non è regolamentata. Yeah! Dalla Cina con furore! L'urlo di Yan terrorizza l'Occidente! Giorgio, Leo, ma che vi è preso? Vi siete mangiati una medusa a morsi! Il vicino cinese è proprio simpatico! Huia! Huia! Ci ha insegnato qualche mossa di Kung Fu! E chi è? Kung Fu Panda! Basta con questa cagnara e trovatevi qualcosa di utile da fare! Per esempio, andate ad allenarvi in giardino, che questo è l'anno del dragone. Subito! Lunga vita all'imperatore! Comunque, chissà cosa ci faranno a cena. A me piacerebbero tanto i ravioli al vapore. Guarda che sono cinesi, non dei bolognesi salutisti. Ci daranno da mangiare certe schifezze. Come i nidi di rondine? Sì, certo, certo. Tagliatelle rovinate con salsa di soia e rifritte. Lo sanno tutti che le tagliatelle al supermercato nella confezione hanno la forma di nido. E c'è una ragione. Perché se le seccassero lunghe e dritte come gli spaghetti, si romperebbero tutte. In realtà c'è un'altra ragione. Le tagliatelle, quelle tradizionali, non escano trafilate. Si fa un rettangolo di pasta. Lo si arrotola come un involtino primavera, poi lo si taglia a striscioline, 8 mm di larghezza. A quel punto si prendono le estremità delle striscioline, le si distendano e si arrotolano sulla mano. Ogni nido un rotolino. E comunque i nidi di rondine non sono fatti di pasta. I nidi di rondine sono fatti di nidi di rondine. Ma va, ma parli di quegli uccelli neri che fanno i nidi con gli sputacchi sotto alle intercapedini del tetto? Beh, in realtà l'uccello in questione non è una rondine, ma varie specie di rondoni che vivono nei mari tropicali dell'Asia. Si chiamano salangane. Nidificano nelle rocce nelle scogliere oppure nelle caverne. I cinesi di nidi di salangane ne importano a milioni. Costano fino a 1200 euro al chilo. Bleh, ma che schifo! E che sapore hanno? Dice che sappiano di gomma e che abbiano la consistenza della gomma. Ma non è per il gusto che i cinesi le mangiano. Pare che abbiano molte proprietà salutari, tra cui quella di far ringiovanire. Sentite, a me queste porcherie mi danno il volta stomaco. Senza neanche menzionare il fatto che ci toccherà mangiare con le bacchette. Neanche fossi un batterista. Anzi, voi che avete sempre la risposta pronta. Ma com'è che in Cina, di tutti i modi che ci sono per mangiare, hanno scelto proprio il più difficile? Ma Marco Polo, che era veneziano, non gli ha insegnato a mangiare con le posate? Intanto le posate sono arrivate anche da noi molto dopo Marco Polo, in particolare la forchetta. Ma se la forchetta è un tridente in miniatura, è vecchia quanto l'uomo, ne parla il Vecchio Testamento a proposito delle cerimonie del Tempio e ce l'avevano gli dei del mare come Poseidone. E non è che serviva tanta fantasia, usata come utensile sacro o come arma, sempre dal forcone veniva. D'accordo, ma usare un forcone piccolino per prendere i bocconi dal piatto fu un'idea bizantina. Arrivò da noi dopo l'anno 1000 e grazie ai veneziani. E poi ci mise tantissimo per diffondersi. Se in Italia, già nel 400, la forchetta era comune sulle tavole dei nobili e nel 600 anche su quelle dei borghesi, nel resto dell'Europa ci ha messo altri 200 anni per diventare comune a tavola, tanto tra i ricchi come tra i poveri. Insomma, francesi, inglesi, tedeschi e scandinavi la usano dall'altro ieri. E anche tanti italiani, visto che abbondantemente anche nel Novecento ce n'erano molti che si sognavano di avere anche solo qualcosa da mettere nel piatto. Figuriamoci se si preoccupavano del con che cosa mangiarlo. Totò, in Miseria e Nobiltà, gli spaghetti li mangia con le mani. In Cina il coltello è un utensile da cucina, non da tavola. Nella cucina orientale i cibi arrivano in tavola già tagliati, spesso molto caldi o dentro zuppe a bollore. Il legno, cattivo conduttore di calore, permette di prendere i bocconi senza bruciarsi, per poi ruotarli in aria per freddarli e portarseli alla bocca facilmente. Le bacchette sono facili da fare e poco costose. Per le posate è un'altra storia. Pensa quanto è complicato farle di metallo. La miniera, la fucina, il fabbro. Quindi figurati quanto costano. Pensa che un tempo l'alluminio, che oggi è un metallo comunissimo, così comune che ci impacchettiamo i cibi, fino al secolo scorso era un metallo rarissimo. Napoleone III ordinò un servito che era di posata in alluminio e gli costò una fortuna. Ai suoi banchetti solo gli ospiti d'onore mangiavano con l'alluminio. Agli altri gli toccava accontentarsi delle posate d'oro. Insomma, i cinesi a tavola sarebbero più democratici di noi, anche se vivono nella dittatura più longeva della modernità, che a milioni li ha fatti morire di fame almeno fino a tutta l'era di Mao. Vabbè, complicanze della politica. Ehi, ma che è questo trambusto? Che succede là fuori? Alessandro, vai a vedere dove sono i gemelli! Oh oh, credo che l'abbiano fatta grossa! Hanno dato un colpo di Kung Fu alla mensola, dove il signor Lee teneva il suo bonsai. L'asse si è spezzata e sono caduti vasi per terra, rompendosi! È un bel problema! Il signor Lee tiene a quei vasi come se fossero i suoi figli. Non la prenderà bene. Ma ditegli a quella canafre all'arancia di mettersi tranquillo e di non fare troppe storie. Tutto questo casino per tre alberelli striminziti altimeno di un involtino primavera. Ditegli che domani vado nel campo, butto una manciata di semi e l'anno prossimo gli riporto una camionata d'alberelli alti almeno 1,5 metri. Oh no, sta venendo qui. Non ci siamo, siamo a pesca di meduse. Ritorni l'anno prossimo per il capodanno cinese. Sentite quanto suona. Ehi, e mica siamo in grosso guai a Chinatown. Giorgio, non mi pare una buona idea lasciarlo lì fuori. E perché mai? Perché il signor Lee, di soprannome, lo chiamano Bruce Lee.